mentre prima c'era qualche segnale che usciva dal QRM, proprio spiccava, arrivava a 7, 8, 9, 9, 5, adesso sono un po' tutti livellati e una cozzaglia di segnali, non si comprende nulla. L'ultimo che ha fatto un break era l'Emilia Romagna. Attenzione l'amico che chiama, la sarda che risponde, l'operatore doppio rum avanti. Non ho copiato cosa hai detto. Troppe sovramodulazioni, parlate una alla volta, dai, dai. La città di Sassari vi ascolta, avanti. Al centro Sassari sei copi da Puglia. Avanti, avanti l'amico che chiama Sassari. Sta aumentando, va. Oh, ci sono molti canali con segnali buoni anche, tutto dall'Italia. E dimmi dove? Già, non ho guardato manco il caso, spazzolato e sentivo voci. Anche sul 12 c'era un segnale discreto. Attento Alfa Mike, se ascolti Delta Romeo della città di Sassari, cambia. Attenzione Sassari. Kappa, provincia dell'Aquila, ti ascolto, in mancanza di QRM ti ascolto, dai. E l'operatore Delta Romeo della città di Sassari, nonché doppio rum, avanza. Doppio rum. Kappa. Doppio rum, ha detto. Doppio rum. Roger, se copi Sud Italia. Avanti Sud Italia, l'operatore doppio rum che ti supercordializza dalla città di Sassari, nord Sardegna. Ok Sassari, buonasera, qui Giacomo Aliante in Albero Bello, la città di Trun, provincia di Bari. Ok, ti ascolto con piacere, prego. K, Albero Bello, ti ascolto al 100 e ti supercordializzo una strettona di mano. Non so come arrivo di segnali lì, ma tu arrivi molto bene, dai, sei l'unico adesso che sento bene. Perfetto Sassari, arrivi bene anche tu, solo che ci sono molte, molte modulazioni, propagazione sia dalla Sardegna ma anche dalla Nord Italia, e quindi ci sono molte, molte modulazioni fatte ogni tanto di tempo. E tuo segnale è buono, grazie a loro, ma è un bacione. Ti saluto qui allora, sono Giacomo, di Pari, ti saluto e ti abbraccio, ciao. Kappa Aliante, dai, ci sentiamo, una strettona di mano, buon corretti, volevo passarti gli amici di Sassari, ma visto che stai andando via ti saluto, dai. Avanti Marco. Sì, sì, arrivava discretamente bene. Santiago 8, segnale massimo di Santiago 8 e riusciva a coprire il resto della propagazione. Quindi se mi ascolta ancora, se già non è andato via, un saluto ad Albero Bello della città di Sassari. K. Sì, un magazzino. Riesci a superare il navale qui. Albero Bello, a me mi arriva 9.15, 9.20. È una radio super 5. Caspita, ottimo. Tore ha provato, Tore prova. Cosa? Cosa volete provo? Albero Bello, lo copi? Tutti del coppio, tutti quanti del coppio, solo che a volte arrivano tutti assieme. Aspetta, attenzione Albero Bello, per copi, stazione Sierra Tango di Sassari. Io adesso ho copiato. Ok, la devo essere anche a te. Attenzione Albero Bello, Sierra Tango ti copio al 100%, vieni avanti se mi copi. Arrivi benissimo, arrivi benissimo. Ok, Abruzzo, Teramo, 100%, dai, c'è troppa popolazione, Marcello. Ok, d'accordo, vai, passo i vicoli, avanti Gianni. La mia radio in questo momento sto utilizzando un vecchio apparato degli anni 70, veicolare, il Pace 123A, questo microfono originale. Insomma, la radio mi meraviglia sempre, ok? Grazie a voi, con la buonasera, un abbraccio qui da Albero Bello, Cap, Albero Bello, mi dai un controllo a me per cortesia, voglio sapere come arrivo lì. Tu mi arrivi abbastanza bene, Santiago di 9. 5-9. Ok, arrivi bene anche tu, arrivi bene anche tu. Up and down, insomma, è dovuto alla propagazione, però... Cappa, ti ringrazio, dai, ti passo Natalino, avanti Natalino. Ho fatto una prova poco fa in SSB ed ero un quarto d'ora parlando con uno di Firenze. No, già funziona l'apparato, dai. Non so se l'amico mi sente perché l'ho riabbassato a 2 watt questo apparecchio e non so se ci arrivo da lui. Aumenta. Attenzione Albero Bello, copi, stazione Sierra Tango dei Sassari. Sì, ti ho copiato, meglio adesso, ma anche 2 watt ti ho tirato fuori. E quando hai messo il QRM ti ho sentito, Vado. Gerito, di Alzheimer. Scala. Troppo sovramodulazione ci sono. Cappa, attenzione Albero Bello, Marco da Sassari richiama per un segnale, per un rapporto di segnale, cambio. A tutti gli altri. Segnale buono, tocca il 9, poi torna a 7, ritorna a 9, ma la radio è quello che importa, la radio è buona, chiara, pulita, tutto roger. Dimmi no che c'è un appello, c'è qualcuno che dice a tutti gli amici, avanti, avanti chi ha detto tutti gli amici che sono in ascolto. Gianni, alza, spingi. L'hai sovramodulato, Marconi. Stava parlando quell'amico dell'appello, l'avete sovramodulato. Marco non lo sente, deve essere. No, negativo. Rimandatelo avanti, avanti l'amico dell'appello. Gianni, fai da ponte. Qua c'è Sassari. Ma magari lui sente quello di Cagliari, non lo sentiamo noi quello di Cagliari, capito? Per fortuna. Mi si ma orrendi. Ma ascoltate. Beariru. Piano piano. Attenzione, Albero Bello, com'è la mia radio, come ti arriva? Antonio Massiero Tango, operatore Torino. Sì, Antonio, hai una bomba tu di modulazione, telefonico. Ok, ti ringrazio, sto usando lo sciure, dai, con lo microfono da tavolo. Il microfono quello, E la radio? La radio? La radio è un Galaxy Saturn Echo. QSL, dai, è più alto al 100%, Galaxy, certo, perfetto, dai, arrivi magnificamente di radio, sembra, insomma, la BBC, ok? Attento Albero Bello, se ascolti Natalino Alfa 1 dalla città di Sassari, cambio. Natali! Vai Giacomo! Dimmi Tonino. Ti ha rilasciato per l'Albero Bello. Forse non l'ha copiato, c'è un po' di belame. Bello, sì, hai sentito che apparato ha il Pace 123A? Eccellente, c'è anche bene di radio. Hai sottopopolato il Natalino. Oh Natali, vai tu. Albero Bello, ci ascolti Sassari, cambio. Sì, ti ascolto benissimo, sento anche l'eco, ti ascolto benissimo, ok? No, volevo solo vedere se mi ascoltavi. Come sto arrivando lì nella tua zona? Adesso perfettamente, arrivi fortissimo. Il segnale, ripeto, dipende dalla radiazione, sale e scende, ma la radio è bella presente. Ok, grazie del QRK, amico di Albero Bello. Anche tu arrivi Santiago 9, Radio 5, dai. Adesso dovremmo fare una prova, parliamo tutti insieme e vediamo chi passa. Cade la propagazione, ne attaccate i lineari, no? Naturale. Io ne ho. Spesso. Ma tu sei aperto. Ragazzi, un abbraccio qui dall'Aliante, in provincia di Bari, Albero Bello. A risentirci alle prossime, ok? Ciao. Ciao amico di Albero Bello, un abbraccio dalla Sardegna. Ciao anche da parte mia. Ciao Albero Bello, salutoni, speriamo di ascoltarti alle prossime. Ciao, avanti da Parigi. Ciao Albero Bello, un abbraccio 73, a te al QRA, ci sentiamo alle prossime, avanti Marco. Ciao l'amico di Albero Bello, ci sentiamo alle prossime. K, comunque ci avrebbe fregato Gianni, Gianni è passato il segnale di blocco da 9.20 a 9.30, tum, ha detto babà, e quindi non c'è storia, ci avrebbe fregati tutti. Mi state convincendo a prendermi un qualche aiutino, perché non va bene così. Comunque Marco, in SSB funziona l'apparato, ero un quarto d'ora parlando con un amico di Firenze. Ok, va bene, stavo usando una J-Pol, quella della Smartmatic che ha quell'amico nostro Carlo, stavo usando una di quelle, arrivava una bomba. Ma chi è Albero Bello? No, l'amico di Firenze, stavo parlando in SSB poco fa. Ah, ok. Sì, Natale, quindi vedi, comunque aiuta e aiuta molto, perché praticamente se tu gli dai 10 watt in SSB e poi anche un 203 ti dà 100 watt effettivi modulati in SSB, guarda che è tanta ma tanta roba, aiuta molto. Ma lo so, io sono sempre stato contrario ai lineari. Vabbè, vediamo un po', magari me lo prendo uno. Fa cosa al contrario che le Audi Burdu. Sì, ma non ne ho mai usato, diciamo, non mi piace, non. Già ce l'ho avuto lineare, anche più di uno, ma non. Quello che avevo in macchina mi piaceva, vedi, se l'avessi avuto adesso mi sarebbe servito. Era un bel 550, cazzo, ce l'avevo sul sedile, una bomba era. Brecco? Avanti Brecco. Brecco? Avanti Brecco. Città di Sassari, Nord Sardegna. Sassari, buonasera, si ascolta qui da provincia di Bari. Papà Bari, ti ascolto abbastanza bene, dai. È l'operatore Gianni Doppio Rum in compagnia di tanti altri amici in ruota, ti ripassa uno a uno e così saluti anche a loro. Avanti Tony. Gatta, ciao l'amico di Bari, provincia di Bari, cioè. Mi hai sentito da parte mia, Tonino Kawasaki da Sassari. Avanti, ti passo l'amico Marcolino. Avanti Marco. Ciao, sì, copiato l'amico dalla provincia di Bari. Segnale mediamente buono. Diciamo, se arriva 8, qui dovrebbe essere un 9 reale, perché questo smitter è tarato, il 9 ce l'ha, 100 microvolt, anziché 50. Quindi direi un 9. Avanti l'amico di Bari. No, avanti Natalino. Ciao, buonasera l'amico di Bari, ci ascolti qua, Natalino Alfa 1, dalla città di Sassari, nord della Sardegna. Avanti ancora a te, arrivi un segnale di 9 e una radio di 5 qua. Avanti ancora a te l'amico di Bari. Purtroppo io ascolto tutti, però c'è un po' di propaganda e a qualcuno scopre. Comunque saluto Tony, Marco, non ho capito da parte dell'ultimo collega perché eri sovramodulato da altre stazioni. Comunque ascolto tutti quanti, insomma, più o meno allo stesso livello. quello, siamo intorno ai 9 più radio al 5, quindi è buona propaganda, sto qui. Qui è Mister Francesco, dalla provincia di Bari, esattamente Mola di Bari, mi trovo diciamo a sud di Bari, un 22 KM, tutto qua, l'immigrazione che mi ha fatto entrare, avanti. Scappa dai, amico di Bari, ti ascolto bene anch'io qua, oggi la propagazione è abbastanza buona, abbiamo coperto tutta la Sicilia, la Campania, insomma diverse località, stiamo andando bene dai stasera. Sì, Gianni, ho notato che c'è, con la provincia di Sassari, c'è proprio un canale preferenziale che ti becca tutto il sud dell'Italia, capito? La Sicilia, la Calabria, la Puglia, proprio quella zona lì, sembra ci sia proprio un wormhole che in canale segnali e ce le riporta qua e viceversa. Cappa. Sì, è così. Oggi poi abbiamo coperto tutto, io a ultimo l'Emilia Romagna, però poi è venuto avanti un attimo e poi è scomparso. Io fianco Ugo. Qualcuno riesce a 2-3 persone. Beh ragazzi, continuate a divertirvi, io sto andando a portare il cane, questo vi sta rompendo, vuole scendere, dai, ha ragione. Dai, poverino, lo porto giù. Mi stavo divertendo, ma purtroppo devo mollare. Io già. Io anche se sono le 8, boh, forse ci viene un caffè, purché di caffè in atto e così dai. Tanto siamo tutta la sera in radio mia. Dalle 5 ci siamo. 3 ore non ti bastano, via. Sì, ma quando c'è divertimento ti passa ma non te ne accorgi, capito? Vabbè dai, saluto tutti, ciao Tonino, ciao Natalino, Marco e tutti gli altri amici che sono all'ascolto, dai. Saluto tutti e grazie per il consiglio, per il divertimento, ciao. Ciao Gianni, ciao, mettici a log, eh. Ciao Gianni, oh, ritengo anche la parte mia che sono al telefono, ciao a tutti. Ciao Tonino, ciao Gianni, metteteci a log, che se no ci offendiamo, io e Marco, K. Natali, come mai oggi ti sento? Sei agganciato, mica disturbi. No, non sono agganciato, sono arrivati dall'apparato questi. Questo è un altro apparato e... cioè, sono 15 watt, non di più. Magari mi senti per quello. Ah, ok, ho capito. E lasciati quello così riesco a sentirti. Marcoli, cosa mi racconti? Siamo posti per sentirci. Eia, tutti i giorni uguali qua. Tutti i giorni uguali, poi con mamma un po' così, mezza allettata, insomma. Le giornate sono monotone, sono un po' più casalingo, d'altronde ha bisogno di supporto lei e quindi per la famiglia si fa, ci mancherebbe. Stavo pensando, sì, Natalino esce, caspita, l'ho sentito quanto sarà, 15 watt, 13, quello che sia, lo ascoltano bene, però ho notato Natalino che l'eco alle volte confonde un po', dovresti metterlo più leggero, appena percepibile o percepibile, non lo so, capito, perché se no è troppo wow. Non ce l'ho l'eco adesso, mi guarda. Così bene va. Sì, benino. Eia, no, comunque ho sbagliato io, Natali, quando ti ho detto, ah no, c'è ragione, aspetta, l'eco ce l'hai frontale, l'autoascolto è la funzione del menu 2, mi pare sia chiamato NOG, confermi? La funzione 2, dove ce l'ho? Allora, ripeto, la funzione numero 2 del menu, il primo è il mic gain che dovresti trovare, credo, il secondo è quella chiamata NOG, che appare una specie di NOG, ed è l'autoascolto, lo puoi regolare, capito? No, vabbè. Adesso l'ho messo, guarda, l'ho messo a mezzogiorno, quello di Furi, e l'altro è a un quarto, là, quasi, a un quarto è adesso, mia, a un quarto, e quello di Furi a mezzogiorno, guarda come va l'eco. bene, è appena appena percettibile, non dà fastidio niente, anzi ti completa, se vogliamo ti completa anche la modulazione, non è male. No, ma prima, quando stavi facendo un po' di ex, l'avevi messo tipo camionaro, no? Troppo wah wah wah wah. Vabbè, io non mi ascoltavo, te l'ho detto. L'ho messo così, però lo tolgo, là, via. Se no devo proprio usare, lo uso. No, dalle mie parti era impercettibile, no, non credo ci fosse l'eco. Quando ci arrivava l'eco, quello sopra normale, la voce, la modulazione. Qua lo sentivo, c'era una piccola ripetizione, piccola, forse in locale lo senti di più. Allora Natalino, potresti metterlo appena più su di un quarto, capito? Un po' più su di un quarto, dai. Guarda, così aspetta che lo rimetto. Sì, quello a metà va bene, però poi quello principale è poco più di un quarto. Potresti metterlo, guarda, a metà, tra un quarto e la metà. Guarda così, 1, 2, 3. Lo copi adesso l'eco, Eugenio? Attento, Eugenio, mi ascolti così? Sì che ti ascolto, ma eco non ce l'è. Cioè, perlomeno, io non le sento. Allora un po' di più, Natalino, un po' di più. Guarda, così è a un quarto, bene va. Lo senti l'eco? Adesso inizia a sentirsi, ma proprio ci vuole attaccare l'orecchio, molto leggero, molto leggero, quasi niente. Io lo mettevo così, Eugenio, lo mettevo l'eco, una cosa che si sentiva e quasi non si sentiva. Così è adesso il mio, dai, è un quarto, e quello di fuori l'ho lasciato a metà. E lascialo stare, va bene, è perfetto, lascialo giù. Natalia, ma tu mi ascolti, sì? Sì che ti ascolto, Eugenio. No, lo metto solo così qualche volta, non è che mi piaccia molto l'eco. Vabbè, ma stavo dicendo, mi ascolti bene o per fatica? No, già ti ascolto, mazzo di segnale ti ascolto, aspetta un attimo, fai un passaggio così ti dico il segnale come arriva qua. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu arrivi 4, modulati 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E tu arrivi Santiago 6, oscillante a 7, capito? Già va bene, hai potuto ascoltarci, va bene, va bene. Eccomi, allora. Allora, sto guardando anche lo Smith, questo segna un Santiago in meno, tu sei 7,5 circa, quindi dovresti essere un 8,5 circa, il segnale è vero e proprio per corrispondere a tutti gli altri apparati, quindi 8,5 dai. Io vabbè, non fa testo che ho l'aiutino piccolo però mi. Io manco quello. Io quando parlo in locale addirittura esco con 2 watt, adesso saranno 15, dai, 15, 16, come ti avevo detto Marco, adesso non me lo ricordo cosa ti avevo detto che mi segnava il wattmetro. Per esempio il mio 5005 ha 13 watt in AM, 13 misurati, non oltre però, in FM ne ha 40 e in banda laterale un po' di meno, tipo 30-35, un po' meno dell'FM, non so perché, anziché essere uguale è un po' meno, ok, vai Eugenio. C'era un breco, guardate il breco. Ok, se mi ascoltate, non so di dove siamo, qui è Lucca, Toscana. Amico di Lucca, qua è il nord della Sardegna, città di Sassari, stazione Natalino Alfa 1, avanti. Natalino, c'è stato sovramodulato, comunque Natalino, rimetto se mi ascolti, poi c'è stato un break e fallo venire avanti, avanti Natalino. L'amico di Luca arrivi molto bene qua, ti passo gli altri amici, c'è Eugenio e Marco con me in ruota. Marco, vai avanti tu e chiama l'amico di Luca, qua arriva benissimo, è 5-9. No, qua arriva a fondo scala, avanti il brecco? Sì, buonasera, qua operatore Dario, Nord Toscana sempre. K ben copiato, segnale di 9 abbondante, una radio di 5, Marco da Sassari, al momento con 5 ottavi d'onda Energy dalla Midland e un 50 watt, K, viene avanti se copiato. SL. Allora io rifiuto di avvicinare se a Natalino oppure all'altro amico di Lucca. Dimmi. Premetto che c'è una portante di propagazione. Vediamo se copia Eugenio ancora, vediamo se smette la portante. Eugenio, vai tu poi. Ok, attento, attento, se vai a ascoltare la città di Porto Torres, del Nord Sardegna. Ok, viene avanti l'amico della Toscana. SL Eugenio 5-8 per tutti e tre, comunque, tutti e tre un 5-8 da parte mia. Qua operatore Dario. C'è anche l'amico sotto Sierra 13, lo faccio venire avanti che vi dà il rapporto suo. Ah, ok, ok lì amici, comunque vi ascolto tra segnali 5, 5 8. E 8. Ok, vi ascolto bene, benissimo. Saluti, salutoni da Sierra 13, Sierra 13, avanti Natalino. Cappa, salutoni 73 dalla stazione Alfa 1, operatore Natalino. Le mie condizioni di lavoro sono una Nittone AT5555 e una Game Master 5 ottavi d'onda verticale. Ok, avanti ancora all'amico che mi ha fatto, che mi ha rilanciato. Ok, ricarico, riprende 13, ok, capito. Stanno una 5 ottavi 9.950 40-50 di spinta. Mamma. Mario, gira per Eugenio. QSL, QSL, le condizioni di lavoro comunque sono un CRT, un 6009, 50 watt in antenna e una Sirio 5 ottavi, una 5 ottavi, vai, Marco se vuoi. K, le mie condizioni di lavoro sono apparato un K, 10 watt massimo, vai, con la Game Master 5 ottavi, tutto qua. Ok, Marco lì, fai avanti tu. K, ok, sì, allora l'antenna l'ho detta, infatti vi ho detti, l'apparato non l'ho detto perché mi vergogno, è un minuscolo presidente Taylor IV, praticamente un piccolo omologato MFM, tutto il resto lo fa l'aiutino dei 50 watt, K, è la 5 ottavi. Avanti gli amici di Lucca. Questa è la frequenza di Cocoma. Tu sai. Quindi voi siete. Prova tu Luca. Persone dalla Sardegna. Da farmi la doccia, dai, vi saluto. Ciao TVN, tromba di naso. Vai, Cocoma hai trovato tu siccoma. TVN. Saluti a tutti gli amici di. ML vai TDN vai ai ai ai, qua sento sigle strane, sicuramente delle Lambert Station, spie di Putin che stanno comunicando in codice. Sono vuol dire ML, sì, eh? Immagina cosa potrebbe essere ML. A me mi sembra che sei MC tu. No, ML, fidati, al 100%, te lo posso garantire. Se vuoi te lo posso anche dimostrare. Se sei uomo vieni qui e me la sbatti sul tavolo. La voglio vedere. Ah, se fai fare la doccia, non mettere la foto sul tavolo. Voglio vedere se prima arrivare. Dammi il tempo, dammi lì. Una mezz'oretta e arrivo. Perché bisogna anche soppesarla, eh. E questi innamoreggi e le su vai io. Ah? Ma se concetta, va a me, no, e ci vuoi. Non si dà di mai mai vinto, no. Non c'è di fumatore adesso. Oh, abbiamo salutato gli amici della Toscana, se l'avete risalutati. Ma io sento anche questa portante in propagazione, è una portante muta, sale e scende e ogni tanto copre tutto. La ricevi tu, Eugenio? Sì, ogni tanto sale, scende, è vero, è vero. Attenzione, la Toscana! Mario, Luca, ci siete ancora? Sì, QSL, siamo ancora qua. Allora, vediamo un po', la provincia di Avellino chiama, buonasera. Ci siamo ancora a Toscana qui, avanti. C'è anche Avellino che è entrato, dai. Io non ne ho più voglia. Faccio QRT, vi saluto. Ci sentiamo alle prossime. Salutoni agli amici della Toscana e anche all'amico di Avellino, 165 macchina Pemberosca. Il Bamba nella provincia di Salerno, Cattola. Ciao amico. Ciao, ciao Natalino. Dai, buona serata, anch'io stacco perché stiamo dalle 5 in radio, dai. Senza la pausa, ok. Allora, saluto gli amici della Toscana entrambi e poi sento altre stazioni che penso al Sud Italia, io interrompo qua. Ok, un salutone alla Toscana dalla Sardegna, operatore Marco vi super saluta, vi cordializza e alla prossima volta. Avanti. QSL, dai, alle prossime, buon fine settimana, buon inizio a tutto, dai. Alle prossime, saluti Alfa 1, Eugenio e Marco, salutoni dalla Toscana. Vai Sierra per i saluti. Ok, Sierra vi saluta, salutoni qui dalla Toscana. Grazie, lì. Avanti, Nicola, spacca per il capo Eugenio. Eugenio ti saluto e vai, saluta anche tu gli amici della Toscana, io stacco e faccio una pausa a caffè e non solo, ok, vai Eugenio. Ciao Marco lì. Ciao Marco, anch'io caffè adesso. Ciao, attenzione Lampo, radio stazione Lampo, senti il Bamba subito italiano. Canale 10, canale 10, Nicola spacca per il Zoma in quella di Rosarno. Ascolti Giovanni Albano, provincia Salerno. Nicola.